Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Nell'ultimo periodo l'Europa, questa è la mia opinione personale, ha perduto quality of dream. Insomma, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, dice Renzi, avete sentito con quale inglese più o meno impeccabile, ha detto che l'Europa ha perso la qualità dei sogni, quality for dream. In Italia abbiamo perso parecchio la qualità dei sogni, perché oggi il dato sulla disoccupazione è proprio record e continuerà evidentemente a essere record. Si dice ogni poco, ormai da diverso tempo, a febbraio il 13% di disoccupati, il massimo dal 1977, per quanto poi riguarda i giovani il 42,3%. Poi c'è il ministro del lavoro Poletti che dice la disoccupazione è destinata a aumentare, è un dato inevitabile. Tanto per tirarci su, ha detto, questa crisi scaricherà ancora problemi sull'occupazione nel paese. Poi c'è il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, che dice sul fronte del lavoro abbiamo osservato una flessibilità non utile, utilizzata da imprese che non hanno innovato, ora stanno innovando, bisogna perseguire una flessibilità diversa. Anche su questo sarebbe poi interessante capire bene che cosa si intende per flessibilità diversa e se davvero si riuscirà a raggiungere gli obiettivi che già Renzi ha annunciato diverse volte. Dice comunque Renzi, fra le tante cose oggi, non pensino gli altri partiti che io faccia la bella statuina. Lo dice in un'intervista a Ballarò, che poi cercherò di farvi sentire a sprazzi durante Effetto Notte. Ma come sapete all'inizio, prima vi riassumo la giornata. Il vertice a Londra, Renzi incontra Cameron e ne incassa il pieno sostegno. Le riforme di Matteo, dice, sono ambiziose. Crisi, la leggera ripresa non crea lavoro, disoccupati al 13%, il record dal 1977, per i giovani al 42,3%. Baby Squillo, la procura frena sui patteggiamenti annunciati con 40.000 euro, si valuterà caso per caso. Calcio, quarti di finale per la Champions, Atletico e United a caccia di imprese. Ecco, tra i vari temi di stasera affronteremo anche quella del Baby Squillo. Sapete che ha fatto molto discutere i vari titoli che oggi c'erano sui giornali. Si salvano clienti salvati delle minorenni con 40.000 euro. Poi la Procura di Roma ha smentito, però potrebbe essere un'ipotesi anche questa. Se volete commentare su questa notizia, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i messaggi al 349-238-6666 e poi naturalmente sulle altre notizie. Ma partiamo quindi dal vertice che c'è stato oggi a Londra tra il Presidente del Consiglio Renzi e il Primo Ministro britannico Cameron. È stato un successo, Cameron ha dato il suo pieno sostegno a Renzi, ha detto che le sue misure sono ambiziose e che insieme vogliono cambiare l'Europa. Poi di questo però parleremo in modo più approfondito più tardi, collegandoci direttamente con Londra. In mattinata, tra l'altro, Renzi aveva incassato un nuovo plauso dall'Europa, dal commissario Rehn, che ha confermato fiducia nel fatto che l'Italia rispetterà gli impegni. E al termine della prima giornata di lavori dell'Ecofin, cioè la riunione dei ministri economici e finanziari d'Europa, ad Atene il ministro dell'economia Padoan ha detto: battere la disoccupazione è il problema centrale della politica economica in Europa, il lavoro è la priorità, aveva precisato questa mattina anche il Presidente del Consiglio proprio da Londra commentando i dati sulla disoccupazione. Dati quelli dell'Istat che illustrano un mondo del lavoro in seria difficoltà. A febbraio il tasso di disoccupazione infatti al 13%, un livello mai raggiunto dal 77, con la platea dei senza lavoro che supera la soglia dei 3,3 milioni. Particolarmente colpiti i giovani, il tasso di disoccupazione dei 15-24 anni a febbraio è pari al 42,3%, in diminuzione su gennaio ma in aumento di 3,6 punti su base annua. È sconvolgente, in un anno si sono persi 1.000 posti di lavoro al giorno, commenta il Presidente del Consiglio Renzi. C'è bisogno per questo di correre. Sul lavoro serve più flessibilità, sottolinea il Premier. Il nostro obiettivo, aggiunge, è quello di riportare il tasso di disoccupazione sotto la doppia cifra. Siamo in una fase di transizione, aggiunge il ministro del Lavoro Poletti. Il 2014 sarà un anno dove incroceremo la coda velenosa della crisi con le auspicabili risultanze di un cambiamento di direzione. Il decreto non precarizza il mercato del lavoro, aggiunge il ministro Poletti. Sull'iter parlamentare del provvedimento interviene quindi il presidente del Consiglio Renzi, che ricorda sì alle mediazioni ma senza cambiare l'impostazione di fondo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E Renzi ha rilasciato un'intervista a Ballarò, come vi dicevo, nella quale ha ribadito gli impegni economici, a partire dal taglio dell'IRPEF per i redditi bassi. Sul fronte delle riforme, però, non arretrano i malumori. mettere l'acceleratore sulle riforme in vista delle europee. Per il ministro Maria Elena Boschi bisogna andare avanti senza indugio, anche perché a suo dire l'accordo con Forza Italia regge. Il governo vuole almeno la prima lettura entro il 25 maggio. Così Boschi ad effetto giorno. Ce la faremo ad approvare la riforma della Costituzione. Alcuni punti fermi però per noi sono imprescindibili. Tra questi il fatto che il Senato non sia più eletto direttamente e che non ci siano indennità per i senatori. Ma l'ottimismo del ministro delle riforme cozza con il pessimismo del capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta, che accusa Renzi di fare demagogia e populismo sulla pelle degli italiani. Serietà, perché il dottor Renzi continua a inventarsi contenuti come quelli sulla riforma del Senato, che appare sgangherata e che a un'analisi un po' approfondita non regge. Contrario al superamento del bicameralismo perfetto, Beppe Grillo, per il leader del Movimento 5 Stelle vanno bene i tagli, ma ci vuole un organo di controllo oltre la Camera, perché è in ballo la democrazia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso notizie dal mercato dell'auto italiano. Continua la ripresa. A marzo, secondo i dati pubblicati sul sito del Ministero dei Trasporti, sono state immatricolate 139.337 vetture, cioè il 4,96% in più dello stesso mese del 2013. Migliora poi il fabbisogno dello Stato, che nei primi tre mesi dell'anno si attesta a 31,7 miliardi, con un calo di circa 5 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2013. E siamo così alla cronaca con un caso che continua a fare ovviamente molto discutere. Ne discuteremo anche qui a effetto notte, quello delle baby squillo dei Parioli a Roma. Dopo la notizia che molti dei 52 indagati potrebbero patteggiare, la Procura di Roma frena e valuterà, dice, caso per caso. Sentiamo già Ettore Gassani, presidente dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, al microfono di Roberta Pellegat. Ma mi sembra una scappatoia troppo facile, non credo che si possa impostare la questione in questi termini. Tra l'altro stiamo parlando di bambine di 13-14 anni, quindi voglio dire, è impossibile non accorgersi della loro minore età. Non basta dire non sapevo che fosse minorenne, perché altrimenti non condanneremo più nessuno in Italia. Attenzione a questo tipo di garantismo che ha fatto sempre molto male alle battaglie sociali, quindi non c'è nessuna voglia di fare delle forche, però bisogna stare molto attenti perché la prostituzione minorile è alimentata da pedofili. Eppure il nostro codice prevede il patteggiamento anche per questo tipo di reato e quindi anche la possibilità di pagare una cauzione. Purtroppo il patteggiamento è previsto per quasi tutti i reati, però poi penso che dipende molto anche dalla procura accettare le condizioni del patteggiamento, perché si potrebbe fare anche un patteggiamento a non pagando e basta. Dovremmo anche mettere mano al codice, credo che anche da parte dei magistrati e degli avvocati ci debba essere anche una presa di coscienza per smuovere un po' il legislatore e cambiare il codice penale, perché sono ancora convinto che reati a sfondo sessuale o comunque reati contro i minori siano puniti in maniera molto blanda. E di questo torneremo a parlare più tardi, anche voi se volete sulla pagina Facebook di Effetto Notte o attraverso i messaggi al 349-238-6666. Ma ci spostiamo adesso all'estero, l'Ucraina. Kiev ha deciso di stanziare fondi per aiutare 4 milioni di famiglie ucraine per far fronte all'aumento del costo del gas. La Russia gli ha aumentato il costo del gas, questo l'ha detto l'ambasciatore ucraino in Italia per Elgin. E la NATO ha deciso di sospendere ogni cooperazione pratica, civile e militare con la Russia, lo hanno comunicato i ministri degli esteri riuniti nel Consiglio Atlantico. E siamo alla Siria, sono oltre 150.000 le persone che hanno perso la vita dall'inizio del conflitto nel paese nel marzo 2011, lo riferisce l'Osservatorio Siriano dei Diritti dell'Uomo, tra questi 8.000 bambini. I profughi, considerando anche quelli interni, sono ormai circa la metà della popolazione. Valentina Furlanetto ne ha parlato con Lucio Melandri, capo dell'emergenza UNICEF in Giordania, partendo dalla situazione del campo di Za'atari. Stiamo parlando del campo di Za'atari, dove circa 100.000 rifugiati vivono. Più della metà di queste persone che ho citato sono bambini al di sotto dei 18 anni, ognuno dei quali ha una storia di violenza, giunti in un paese che non conoscono e ad oggi si trovano in mezzo al deserto della Giordania, dove il sistema delle Nazioni Unite ha installato questi campi profughi. Sono sfruttati nel lavoro minorile. Le bambine vengono vendute perché diventa una questione di reddito per la sopravvivenza delle famiglie. Nonostante questo, però, la Siria sembra non scaldare i cuori, almeno stando alle pagine dei giornali e anche alle raccolte fondi. Come mai? Si preferisce, come dire, dimenticare queste situazioni che comunque infastidiscono. Il problema è che non capiamo quanto queste situazioni abbiano un impatto reale anche su ognuno di noi. I profughi che ogni giorno arrivano in Italia, sempre più numerosi, arrivano da queste zone. Verso le elezioni europee, sapete che si vota il 25 maggio e sempre qui a Fettonote c'è anche uno spazio poi dedicato alle prossime elezioni europee. Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia domani incontrerà Marine Le Pen a Bruxelles. Ci sarebbe anche stata una riunione tra i leader di Nuovo Centrodestra, UDC e Popolari per l'Italia, Angelino Alfano, Lorenzo Cese e Mario Mauro per discutere di una possibile emergenza all'europea, all'europea, forza di parlare di emergenza. Intanto i 5 Stelle hanno reclutato i primi candidati, stessa tecnica usata per le politiche. Che scelta online. Ad Eleonora Evi in Lombardia sono serviti 556 voti, a Manuel Vulazzi in Valle d'Aosta invece ne sono bastati 33. È stato Beppe Grillo, come di consueto sul suo blog, a comunicare i nomi dei primi 20 candidati del Movimento 5 Stelle alle europee. A sceglierli online su base regionale ieri sono stati oltre 35.000 iscritti. In tutto a presentarsi erano stati in 5.091. Gli altri aspiranti europarlamentari verranno ora scelti in un secondo turno al quale accederanno i candidati che ieri si sono piazzati alle spalle dei primi 20. Le modalità scelte per la loro selezione però già alimentano qualche malumore interno. È un dato di fatto che si sia candidata gente che noi non abbiamo mai visto, si lamenta il sindaco di Parma Pizzarotti, sempre meno in linea ultimamente con Beppe Grillo. L'area del dissenso continua ad allargarsi anche a Palazzo Madama. Oggi infatti anche Bartolomeo Pepe ha lasciato il gruppo 5 Stelle, che scende così a 40 senatori rispetto ai 54 di inizio legislatura. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto è infinita la storia delle spese allegre delle regioni. Avviso di chiusura indagine inviati in Campania. Cravatte firmate, cene in ristoranti di lusso, giocattoli, occhiali, farmaci, sigarette e persino bombole del gas e tinture per capelli. È questo l'elenco delle spese allegre sostenute dai consiglieri regionali della Campania. Acquisti ritenuti assolutamente non ammissibili dal PM di Napoli Giancarlo Novelli. L'inchiesta sui rimborsi facile è arrivata a conclusione. 54 avvisi di conclusa indagine sono stati notificati dalla Guardia di Finanza a 51 consiglieri regionali della Campania e 3 fornitori di ricevute ritenute irregolari. Tra gli indagati figurano anche il sottosegretario PD Umberto Del Basso De Caro ed i senatori di Forza Italia Domenico Dessiano ed Eva Longo. Il periodo è quello tra il 2010 e il 2012. I reati ipotizzati, peculato e truffa. Nessun avviso è stato invece notificato a componenti della giunta, compreso il presidente della regione Stefano Caldoro, che non era neanche nella lista degli indagati nelle prime fasi dell'inchiesta. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È un lutto nel mondo della cultura. È morto a Parigi lo storico francese Jacques Le Goff, aveva 90 anni e rivoluzionò la nostra percezione del Medioevo. Non so adesso che percezione avremo tra pochi istanti con Dario Ricci della Champions. Tra l'altro qui c'è anche in mezzo le battute di Renzi Cameron, c'entrano qualcosa con... che dici? Sì, oggi si sono stuzzicati, Roberta, chiaramente Italia e Inghilterra... Ma qui si parla però di campionati mondiali, no? Sì, perché Italia e Inghilterra saranno la partita d'esordio sia degli azzurri che degli inglesi il 14 giugno a Manaus, alle porte dell'Amazzonia, e quindi ti pare che Renzi e Cameron perdevano l'occasione di scambiare due battute anche su questo. È stato un buon cavaliere, direi, Cameron, perché non ha usato l'abituale spocchia calcistica inglese, ha detto spero anche vincerà il migliore, cosa ha detto? Sì, su per giù così, insomma, anche il fair play di fatto l'hanno inventato gli inglesi, quindi, giustamente, insomma. Senti, invece per stare a stasera, mi pare che comunque ci siano delle squadre, delle, no? Super partite, siamo intorno alla mezz'ora del primo tempo tra Manchester United, la prima delle due inglesi insieme al Chelsea rimaste ancora in corsa, e Bayern Monaco e Barcellona Atletico Madrid, entrambe ancora ferme sullo 0-0. A Manchester c'è stata una rete annullata a Welbeck al terzo minuto, poi il Bayern è andato vicino al vantaggio con Robben al settimo. A Barcellona più vicino al gol l'Atletico Madrid con David Villa, grande ex, al quarto minuto, un destro fuori di pochissimo. Barcellona che ancora non si è reso pericoloso e che già ha perso per infortunio una delle sue colonne, Piqué, al sesto minuto. Vediamo se si renderà pericoloso più tardi quando ci aggiorniamo con Dario Ricci. Grazie intanto. Adesso diamo invece gli aggiornamenti per chi viaggia e poi comincio ad approfondire con i vari ospiti alcuni dei temi toccati sinora. Tra poco. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo con voi. Tra poco vi faccio sentire anche un pochino di Crozza, Ballarò, però vi ricordo prima i titoli principali. Disoccupazione al nuovo record, persi 1000 posti al giorno e Renzi dice un dato sconvolgente, ma torneremo sotto la doppia cifra. Il Presidente del Consiglio al vertice a Londra incassa il sostegno del primo ministro Cameron. Matteo è ambizioso, dice Cameron, saremo uniti nel riformare l'Europa, più flessibilità sul lavoro. Forza Italia frena sul Senato, no ai 21 nominati dal Colle, Brunetta attacca il Premier, la Boschi apre alle modifiche. La Francia cambia verso, Valls, primo ministro, lavora, nuovo governo, passaggio di poteri con Hérault, avanti più in fretta. E poi Baby Squillo, la procura frena sui patteggiamenti annunciati con 40.000 euro, si valuterà caso per caso. E per il calcio avete sentito, ci sono i quarti di finale per la Champions. Prima di trasferirci a Londra, restiamo in Italia con, mi pare, un Crozza Marchionne, forse? Questa non so. Idea bellissima, sì, no? È messo all'asta. Di vendere macchine dei ministri. Sì, no? le auto blu, certo. Chapeau. Vabbè, ma è un altro mestiere, cioè un'altra cosa. No, io ho provato a fare l'Alfano Romeo. No, vabbè, ma non deve mettersi su. È venuta fuori una macchina banale, no? Senza quid. Vabbè, ma questo, no, ma non... Abbiamo fatto la Lancia Fornero. Cosa? Lancia Fornero. Cioè? Perdeva liquidi dai fanali, no? Vabbè, ma forse... Abbiamo fatto la Frimonti. Cosa aveva la Frimonti? Frimonti sembrava un carro funebre. Ma no, ma guardi, ma non... Ho fatto anche la Brunetta Cabrio. Addirittura. Troppo nervosa. Cioè, troppo casino, sembrava un'ape. Un sacco di idee, Marchionne. Ma lasci stare, non... Ho provato anche a fare la Giulietta Amato. Ah, sì, già, Giuliano Amato, certo. Costava sì. Troppo, voleva la pensione anche come macchina, no? Vabbè. Senta, però... Not good. Non buono, però senta, ho letto che ha deciso di aprire una nuova fabbrica in Russia. Yeah, it's true. È vero, ma sì. Non è stata un'idea mia, no? Non è stata una mia decisione. Ah, no? No, ma come me l'ha chiesto l'ONU. L'ONU? Cosa hanno c'è fatto l'ONU? Una riunione... Sì. E si sono chiesti. Quelli dell'ONU, cosa si sono chiesti? Che sanzioni diamo alla Russia per la Crimea? Ma no. Li facciamo uscire dal G8. E qualcuno ha detto no, troppo poco. Allora qualcuno ha detto li bombardiamo con le bombe atomiche, troppo poco. Ah, troppo poco il bombardamento. Quindi? Punto Obama, no? Obama. My friend. Sì, suo amico. Ha detto no, facciamo di più. Cioè? Deve essere una punizione esemplare, no? E quindi? Minacciamoli di aprire una fabbrica Fiat di Doblo. No, ma non è. Hai sentito Gerardo Pelosi, Marchionne, abbiamo sentito adesso il collegamento direttamente. Ciao Gerardo, da Londra. Buonasera a voi. Inviato del Sole 24 Ore. Lì invece non si è parlato di auto tra Renzi e Cameron, beh, si è parlato comunque di sviluppo in generale, di lavoro, di Europa. E Cameron ha anche parlato del piano di disoccupazione. Insomma, mi pare che ci sia stata piena sintonia, perché Cameron ha detto a sua volta, come ha detto Merkel e altri, ha dei provvedimenti ambiziosi. Matteo, lo sostengo, cambieremo insieme l'Europa. E poi anche il sindaco Johnson, mi sembra che lo abbia elogiato, il sindaco di Londra. Assolutamente sì, diciamo che come anche nelle altre capitali europee, quello che affascina di più le autorità diciamo di questi paesi è il dinamismo, la forza e l'energia, prima ancora che il contenuto di molti provvedimenti, che è ancora diciamo poco definito. Certo. Sono due modelli di riformismo diversi, quello di Renzi e di Cameron, da due schieramenti opposti, ma insieme sono due modelli di riformismo che servono per cambiare l'Europa, non più Europa, non more Europe, ma better Europe, Europa migliore, meno burocratica, più vicina alle esigenze dei cittadini europei. E anche questo, in vista delle elezioni del 25 maggio, è un messaggio contro gli euroscettici. Euroscettici come quelli del Movimento 5 Stelle e in parte anche di SEL, che hanno manifestato proprio qualche minuto fa davanti al Victorian Albert Museum qui a Londra, dove c'è una grandissima mostra sul fashion, sulla moda italiana, con Dolce Gabbana, Valentino, tutte le grandi firme italiane, e ci sono stati una trentina di questi attivisti italiani che hanno contestato Renzi, ma questa è stata l'unica nota se vuoi, un poco stonata di una giornata molto intensa che si dovrebbe concludere con una cena privatissima con l'ex premier Tony Blair. Gerardo, sentiamo un passaggio di quello che ha detto Cameron, naturalmente tradotto, a proposito della disoccupazione, del piano per la disoccupazione. Ha detto tra l'altro che dice Renzi lavora come noi, siamo sulla stessa linea, anche se, come ricordavi, Cameron è del partito conservatore mentre Renzi è di centrosinistra. Sentiamo. Per paesi che hanno grossi deficit, hanno grossi debiti, non c'è scelta, non si può aumentare l'occupazione espandendo il settore pubblico, bisogna fare qualcosa di molto semplice, ovvero bisogna facilitare il fatto che una persona dica a un'altra persona: vieni a lavorare per me. È quello che abbiamo fatto nel Regno Unito, abbiamo favorito l'avvio di nuove aziende, abbiamo tagliato le tasse sull'occupazione, abbiamo favorito l'apprendistato, abbiamo aiutato le piccole aziende, abbiamo facilitato l'assunzione e il mantenimento di un posto di lavoro. E poi bisogna avere un mercato del lavoro attraente e flessibile. Abbiamo 1.300.000 persone in più al lavoro rispetto a quando ho assunto il mio incarico. La stessa ambizione ce l'ha Matteo Renzi, cioè facilitare l'assunzione, dare più lavoro alle persone, e vedremo che in tutta Europa avremo un calo della disoccupazione. Beh, certo, se si dà più lavoro alle persone si avrà un calo di disoccupazione, Gerardo Pelosi, però lui illustrava le misure che hanno adottato in Gran Bretagna per combattere la disoccupazione. Bisogna vedere se poi le stesse ricette sono applicabili anche da noi, no? Sono due modelli e due società diverse. Insomma, questa è anche una società che in parte ha vissuto il periodo thatcheriano con le ferite che ci sono state, ma anche poi la rinascita di questo grande paese. C'è da dire che Cameron, da quando è primo ministro, ha creato 1,3 milioni di posti di lavoro. L'idea e la volontà di Renzi è di tornare alla doppia cifra, cioè il 10% nei prossimi mesi, o meglio nei prossimi anni, un target che vorrebbe dire togliere dalla disoccupazione circa 780.000 persone, insomma una cifra ragguardevole, e con le rigidità strutturali del mercato del lavoro italiano direi che è quasi un'impresa di Sisifo. Allora sentiamo giusto anche il passaggio di Renzi in quello che definisce il codice del lavoro. Oggi noi abbiamo in testa un codice del lavoro che abbia soltanto 50-60 articoli, che sia scritto anche in inglese, molto chiaro per gli investitori, e che consenta tempi certi. Per cui se fai un'operazione sai quanto ci impieghi, chi la fa e come sono le regole del gioco. Questo procedimento va avanti, ci sono naturalmente tutte le mediazioni possibili che stanno dentro il dibattito parlamentare, ma non puoi cambiare l'impostazione di fondo, che è quella di dare garanzie a chi non ne ha e di dare la libertà agli imprenditori finalmente di assumere, e di assumere in modo vero. Gerardo Pelosi, poi Renzi ha anche detto che molti investitori in più scommettono adesso sull'Italia, anche dalla Gran Bretagna, ma adesso ha detto per delicatezza non faccio i nomi delle aziende. Tu per caso hai qualche esclusiva? Guarda, lui in ambasciata ha incontrato oggi gli uomini d'affari della City italiani, che sono tutti occupati in grandi gruppi, diciamo, ormai globalizzati. C'era il finanziere Davide Serra, che è fondatore del fondo Algebris e sostenitore della prima ora dell'ex sindaco di Firenze, Margherita Della Valle di Vodafone, l'amministratore delegato di Avio Francesco Caio, già il commissario dell'agenda digitale, Domenico Siniscalco, ex ministro del lavoro e responsabile per i mercati italiani di Morgan Stanley, e insomma poi c'erano altri, De Benedictis di Finmeccanica, Francesco Gazzarulli di Goldman Sachs, Stefano Mazzaglia di Mediobanca, Carlo Umberto Bonomi di Invest Industrial, insomma c'era un po' quel gota degli italiani che lavorano qui a Londra, e loro hanno testimoniato di un interesse rinnovato da parte degli investitori inglesi e delle società, diciamo, che hanno base qui a Londra, nei confronti di un'Italia che si accinge a fare per la prima volta delle riforme strutturali. Domani mattina in ambasciata Renzi incontrerà gli uomini d'affari inglesi, e quindi forse da loro avrà esattamente il polso proprio della situazione, quello che pensano, diciamo, proprio, ma senza neanche la partigianeria di essere italiani, insomma, perché evidentemente c'era anche questo atteggiamento nell'incontro di oggi. Grazie Gerardo Pelosi da Londra, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Gerardo. Grazie a voi. Buona continuazione nella City. Intanto, se rialziamo un attimo Ballarò, non credo. Vedo Renzi, ma in un'intervista un po' per strada, così col microfono. Pensava. Sì, uno fa sempre bene a dire quello che pensa. Uno potrebbe discutere adesso se è giusto che il Presidente del Senato violi l'imparzialità che lo contraddistingue. Qualcuno può dire, ma come Grasso è del Partito Democratico, non ascolto. Il punto vero è che a me non preoccupa. Questo a proposito delle polemiche sul Senato, di imparzialità o del PD di Grasso. Il punto vero è che Grasso ha detto una cosa che io non condivido. Grasso vuole mantenere i senatori elettivi e con l'indennità. E le riforme a metà non si fanno più. Bene, questo ci è chiaro, insomma, dice, le riforme a metà non si fanno più. Vedo anche i vostri messaggi che arrivano sulla vicenda della Baby Squillo, di cui parleremo tra pochissimo, anche se Fabrizio da Pesaro scrive: perché Baby Squillo? Io la chiamo pedofilia. Devo dire che effettivamente, come non si può essere d'accordo. C'è la pagina Facebook per voi di Effetto Notte, oppure gli SMS al 349 238 6666. Un po' di pubblicità e poi torniamo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Adesso ve le ricordo, anzi in quasi 6 secondi le notizie, però continuo a vedere i vostri messaggi su uno dei temi che tratterò tra poco con l'ospite che saluterò. Vi dicevo, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte a vostra disposizione per i commenti, le opinioni, anche gli SMS al 349 238 6666. Prima vediamo, se avete acceso la radio in questo momento, quali sono state le notizie principali di questa giornata. Il vertice a Londra, Renzi incontra Cameron e ne incassa il pieno sostegno. Le riforme di Matteo, dice il primo ministro inglese, sono ambiziose. Crisi, la leggera ripresa non crea lavoro, disoccupati al 13% e il record dal 1977, per i giovani al 42,3%. Baby Squillo, la procura frena sui patteggiamenti annunciati con 40.000 euro, si valuterà, dicono dalla procura, caso per caso. La Francia cambia verso, Valls, primo ministro, lavora, nuovo governo, passaggio di poteri con l'ex ministro Ayrault, avanti più in fretta, dice. E poi addio alle goffe, il medioevo quotidiano di un divulgatore, il celebre storico francese, si è spento a Parigi a 90 anni. E per il calcio poi ci aggiorniamo a mano con i quarti di finale per la Champions che si stanno giocando questa sera. E saluto Donatella Stasio. Ciao Donatella. Ciao, buonasera a tutti. Del Sole 24 Ore. Avete sentito parlare tante volte dalle cronache, Baby Squillo, le ragazze che si prostituivano ai Parioli, quartiere bene lussuoso di Roma. Ebbene, a proposito di questa inchiesta, quindi parliamo stasera, le ragazze di 14-15 anni, vi ricordo qual era l'età, che si prostituivano per comprare, dicevano loro, borse, vestiti firmati, clienti di queste studentesse potrebbero essere liberi. Questa è la notizia che si sentiva oggi, che c'era già anche sui giornali, potevano essere liberi versando 40.000 euro, cioè attraverso un patteggiamento potevano decidere di stare 5 mesi in carcere o con dei movimenti controllati, oppure appunto con questi, una specie di cauzione all'americana. Non si sono fatte attendere le reazioni dalla vicepresidente della commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, Sandra Zampa del PD, poi anche il garante per l'infanzia e l'adolescenza, Spadafora, insomma varie reazioni politiche, istituzionali e non solo ci sono state. Tant'è che Donatella Stasio, la Procura di Roma, ha frenato poi a metà giornata, dice no, in realtà non ci risulta che ancora nessuna richiesta sia ufficiale sia stata fatta di questo tipo, cioè di patteggiare dando 40.000 euro, e non se ne parla più, ma valuteremo caso per caso. Quindi non è che escludono, per ora questa è la, diciamo, la risposta. Sì. In realtà non si è trattato di una frenata, perché bisogna per una volta dire che le notizie giornalistiche che erano uscite erano abbastanza corrette. Cioè si parlava di una serie, sì, almeno andandole a rileggere alcune sui principali quotidiani. Erano buone indiscrezioni, diciamo. Esatto, erano buone indiscrezioni in cui si dava conto del fatto che c'era una, chiamiamola, trattativa impropriamente un movimento da parte degli avvocati di alcuni indagati. Teniamo conto che ci sono circa una cinquantina di indagati, cioè di persone che avrebbero sfruttato questa prostituzione minorile. Tra personaggi noti, professionisti, funzionari, no? Noti, esatto, di cui forse si è parlato anche molto meno di quanto invece non si sia parlato del fenomeno Baby Squillo, perché poi insomma sull'altro fronte stiamo parlando di pedofilia. Certo, quindi, certo, come dice un ascoltatore, siamo d'accordo, lui dice esatto. Perché Baby Squillo chiamiamo la pedofilia, che così è effettivamente. Esattamente, esattamente. Allora, detto questo, ci sono appunto una serie di istanze che sono già state presentate sulla base di quello che prevede la legge, naturalmente. E, rispetto alle quali c'è una possibilità che il pubblico ministero dia un parere favorevole per il patteggiamento. È vero che le singole posizioni verranno valutate caso per caso, perché è ovvio che ci sono, per esempio, da quello che si è letto, degli indagati nei confronti dei quali non ci sono per esempio delle prove dirette, alcuni che sostengono di non essere stati a conoscenza dell'età della minore, cioè delle posizioni che comunque si sarebbero risolte con una pena molto bassa. Vorrei precisare una cosa che appunto, al di là, per carità, dell'indignazione, mi rendo conto, però poi le regole del processo valgono per tutti e quindi non si deve pensare che nel caso in cui diciamo la pena non venisse convertita in una multa, si è parlato di 40.000 euro, queste persone sarebbero andate in carcere, perché stiamo parlando di persone incensurate, senza precedenti penali, per i quali comunque al di sotto di una certa pena sarebbe scattata la sospensione condizionale, quindi in carcere non ci sarebbero andati. Il calcolo è molto semplice, siccome il reato contestato in alcuni casi, ripeto, perché 50 posizioni sono tante e sono diverse, è quello previsto dal 600 bis del codice penale, secondo comma, che prevede una pena da 1 a 6 anni. Se si applica il meccanismo del patteggiamento, si parte, naturalmente questa è la proposta della difesa, si parte dal minimo della pena, cioè da un anno, a cui si sottrae un terzo della pena in virtù delle attenuanti generiche, trattandosi di incensurati, e a quello che ne viene fuori poi si deve detrarre un ulteriore terzo della pena per effetto del patteggiamento, è così che si arriva a 5 mesi e 10 giorni. Questa appunto 5 mesi e 10 giorni non si va in carcere. Se fosse stato diciamo il calcolo finale superiore ai 6 mesi, non si sarebbe potuto commutare in una multa di 40.000 euro. Stando sotto i 6 mesi si può commutare, oppure si può anche, invece di pagare, scegliere di accedere alla libertà controllata. Ovviamente questa è una proposta della difesa, che ovviamente la difesa sfrutta in alcuni casi per evidenti ragioni, che sono quelle di evitare la pubblicità del processo e molte altre cose, a cui il pubblico ministero deve dare un parere e ammesso che si trovi un accordo sulla entità della pena, poi sarà il giudice a stabilire se quella pena è congrua oppure no. Questo è il percorso. Sì, certo che Donatella, adesso scrive un'ascoltatore, ascoltatrice, con i soldi si compra anche la libertà. Diciamo che la pedofilia in questo modo, la pedofilia diventa un po' una questione di denaro, persino classista come reato, nel senso che si possono permettere 40.000 euro e evitano qualsiasi altra noia, diciamo, no? Forse sì. I reati sessuali in Italia continuano a essere, come diceva anche un avvocato oggi, diciamo un po' sottovalutati, nel senso non perseguiti con delle pene adeguate. È possibile, tu che sei esperta di giustizia, Donatella? Ma io penso che la giustizia sia classista in generale alla fine, però mi chiedo anche una cosa, cioè ripeto, poi 40.000 euro stiamo parlando ripeto, dei casi minimi, poi dobbiamo vedere quali sono questi casi minimi. In ogni caso il problema, secondo me, è questo, è la domanda da porsi, nel caso della pedofilia, nel caso della prostituzione, di molti altri reati, cioè siamo sicuri che è con il codice penale che si combatte la pedofilia e così altri fenomeni criminali? Cioè, purtroppo non usciamo, una specie di vicolo cieco, perché le pene esemplari saranno per ciascuno di noi diverse a seconda delle rispettive sensibilità. Però forse dei principi un po' universali ci possono anche essere, che dici, almeno su alcune cose, poche cose. No, ma infatti la prostituzione minorile è punita da 6 a 12 anni e poi, voglio dire, ci sono anche le aggravanti, ci sono degli aumenti di pena che dipendono per esempio dalla continuità. È ovvio che il processo ha a che fare con dei casi concreti, singoli, e quelli valuta naturalmente, raramente devo dire che accade che di fronte ad una condanna, qualunque sia l'entità della pena, come dire, l'opinione pubblica si trovi tutta quanta d'accordo sulla sentenza, insomma, tanto per capirci. Ripeto, è chiaro che, come dire, lo stigma sociale, l'indignazione deve essere forte e deve essere diffusa in casi come questi, deve, come dire, trasudare appunto dai servizi giornalistici. È un problema culturale, richiede una mobilitazione fortissima. La risposta penale è l'ultima, è quella che arriva veramente alla fine, per cui continuare a pensare che poi queste persone, se anche si fanno 2 mesi di carcere, non fanno, a meno che non siano appunto passatemi il termine, mi viene degli sfigati, insomma, no? Delle persone che non si possono permettere bravi avvocati, eccetera, eccetera, ma poi escono, in realtà non ci risolve il problema, che è un problema gravissimo e probabilmente sicuramente, come quello del femminicidio. Certo, stavo dicendo, da un punto di vista culturale, come prevenzione culturale, però diciamo che anche per il versante penale deve avere anche lì un suo peso, perché altrimenti, no, sembra soltanto di combatterlo culturalmente, probabilmente non serve neanche quello. Anche chi adesso magari come precedente pensa, vado con una 14enne, perché questa è l'età di quelle ragazze, poi magari se ho i soldi pago un tot, se mi prendessero e la passo liscio, insomma. Quindi questo lo lascio comunque all'opinione dell'ascoltatrice e dell'ascoltatore. Vedo effettivamente vari messaggi. Marco che dice: veramente un deprimente segno dei tempi, sarebbe come dire che la prostituzione minorile costa un po' di più. Mi auguro solo che i magistrati pensino bene prima di fare un passo simile. Corrado dice: vergognoso, indegno, la giustizia è uguale per tutti, ma basta contare queste balle. Floriano dice: è una giustizia all'americana, cioè una cauzione, sì. Praticamente pagano in questo modo. E Brigitte dice: chi ha i soldi si può permettere di tutto. E Arturo: non è una novità, da sempre chi ha i soldi può permettersi anche di delinquere, in questo sistema non c'è nulla di davvero vietato, bensì tutto è a pagamento. Insomma, l'indignazione trasuda, come dici tu, sì. Donatella Stasio. Comunque adesso, quindi, quando potrebbero arrivare, insomma, giorni la decisione della Procura, sì, di Roma? Penso proprio di sì, anche perché mi pare di capire che le indagini sono alle fasi finali, ci saranno delle richieste di rinvio a giudizio, però contemporaneamente si definiranno queste posizioni che la Procura definisce, attenzione, marginali. Quanto siano marginali? È chiaro che questo è un giudizio tecnico, penalistico, non è un giudizio morale, perché non ci può essere nulla di marginale. Certo, no? Perché uno c'è stato una volta e un altro 20, allora chi c'è stato una volta? Insomma. Esatto, quindi forse, insomma, ecco, dobbiamo tenere presente, distinguere i due piani. Questo, insomma, è un'operazione importante da fare, ognuno di noi dovrebbe fare, come dire, manifestando e vivendola anche, mettendola in pratica, poi l'indignazione di cui parliamo di fronte a questi episodi. Grazie Donatella Stasio del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Ciao Donatella. Grazie a voi, buonanotte. Buonanotte a te. E poi Ah, dice un ascoltatore, da della signora Bacchettora, non so se a me o da te, dice, negli annunci delle ragazze c'era scritto 19enni, uno che guarda in faccia una 14enne non si rende conto che è una 14enne. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E allora ve le ricordo subito quali sono state le notizie principali di oggi. Al vertice a Londra tra Renzi e il primo ministro Cameron si è parlato di Europa, si è parlato anche di lavoro. Renzi ha incassato il sostegno comunque di Cameron, che ha detto: Matteo è ambizioso e siamo uniti per riformare l'Europa, però ci vuole più flessibilità sul lavoro. A proposito di lavoro, disoccupazione al nuovo record, persi 1000 posti al giorno. Renzi dice è un dato sconvolgente, ma assicura torneremo sotto la doppia cifra. Forza Italia frena sul Senato, no ai 21 nominati dal Colle. Brunetta attacca il Premier, dice attacca il Premier, e la ministra Boschi apre a delle possibili modifiche. Per quanto riguarda la Francia, sapete, c'è stato un rimpasto, cambia verso, il nuovo ministro, primo ministro Valls, lavora al nuovo governo. Grillo annuncia le prime candidature per le europee, scelte sul web, parte da Catania, tra l'altro, un nuovo spettacolo di Grillo, te la do io l'Europa. E poi addio alle goffe, il medioevo quotidiano di un divulgatore, è stato uno dei più grandi, anzi il massimo divulgatore della storia del Medioevo, il celebre storico francese, si è spento a Parigi a 90 anni. Poi c'è la Champions League, sulla quale ci aggiorneremo più tardi. Ora invece, a proposito appunto delle candidature alle europee, parliamo di Europa. Questa volta, visto che stiamo facendo passare un po' tutti i partiti in questi giorni, si parla di Scelta Civica e Betta Fiorito che intervista Andrea Romano e spiega il programma della sua forza politica. Europa 24 notte. Verso le europee. Buonasera da Montecitorio, questa sera abbiamo con noi Andrea Romano, capogruppo alla Camera di Scelta Civica, per capire come si pone questa forza politica nei confronti di queste europee. Allora, voi siete europeisti convinti, ma l'Europa va cambiata? Certo che va cambiata, l'Europa spesso fa di tutto per non farsi amare, no? Per essere, sembrare un soggetto lontano, molto complicato, incomprensibile. Va cambiata, però certamente nessuno deve legittimamente sostenere, può legittimamente sostenere che l'Italia possa uscire dall'Europa per stare meglio. Questa è una falsità, perché per i nostri figli, anche per noi stessi, uscire dall'Europa sarebbe una vera catastrofe, avrebbe conseguenze durissime sulla nostra qualità della vita, sui prezzi, sui mutui, sull'inflazione. Cioè, chi fa propaganda anti-europea coscientemente sottovaluta l'impatto concretamente negativo che avrebbe l'uscita dall'Europa per l'Italia. Dopodiché noi siamo, come Scelta Civica, i più filoeuropeisti tra i vari partiti, che quindi bisogna difenderla l'Europa, difenderla anche da questa, come dire, velleità che hanno alcuni, per cui dovremmo uscire dall'euro per fare cosa? Per fare nulla, anzi per fare molto peggio. Quindi qual è il vostro progetto? Due cose tra le tante. Intanto rafforzare i poteri del Parlamento europeo, che sono già cresciuti in questi anni ma che devono crescere ancora di più, soprattutto con, diciamo, poteri di supervisione più stringenti sul bilancio europeo, da una parte. E dall'altra l'Europa deve, assolutamente deve, lasciare liberi i propri Paesi membri, in particolare l'Italia, di investire di più. Il problema del vincolo del 3% non è tanto legato alla sua vecchiezza, ed è vero, è un vincolo molto vecchio, ma anche dal fatto che questo vincolo impedisce all'Italia di utilizzare risorse che pure sarebbero disponibili per investimenti di tipo strategico. Questa è una cosa di cui dobbiamo essere lasciati liberi. Paura? Avete paura come europeisti convinti di questa spinta di movimenti anti-europeisti? Abbiamo visto il successo di Le Pen in Francia e si parla anche della possibilità di un successo del Movimento 5 Stelle o anche di Forza Italia, no? Poi insomma di un fronte compatto anti-europeista alle prossime elezioni. Lei ha ragione, per la prima volta nelle elezioni europee di quest'anno noi avremo in Italia molti anti-europeismi. Noi eravamo abituati un po' a non discutere mai di Europa, come se fosse un po' la mamma, no? Tutti volevamo bene alla mamma e tutti eravamo filoeuropei in Italia. Chi crede nell'Europa come noi e come tanti altri italiani, anzi la maggioranza degli italiani, deve avere il coraggio delle proprie convinzioni e della necessità di spiegare le ragioni del perché dobbiamo stare in Europa e starci a testa alta. Dentro quale famiglia europea vi collocate? La nostra famiglia europea è quella dell'ALDE, quindi dei liberali e dei democratici europei. Quindi la nostra proposta è l'unica vera proposta che si differenzia sia dal popolarismo populista sia dalla vecchia sinistra. Ringraziamo allora Andrea Romano, ricordiamo capogruppo di Scelta Civica alla Camera, per questo spazio sull'Europa. Grazie onorevole. Grazie a voi. e noi ci risentiamo a domani. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Quindi domani altra puntata, questo è per effetto notte, altro appuntamento anche con l'Europa. Adesso toccherò un altro argomento delicato tra pochi istanti, però stavo guardando ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e per esempio c'è Fabio che dice la legge uguale per tutti a proposito del caso del chiamato baby squillo ma in realtà di pedofilia a Roma e Parioli, con il possibile patteggiamento di molti degli indagati. E dice Fabio la legge uguale per tutti, un po' più uguale per chi ha i soldi. Arturo scrive ho la bruttissima sensazione che questo caso alla fine finirà per sdoganare la prostituzione giovanile, facendola apparire molto meno grave di quello che è realmente. Invece adesso parliamo di un altro argomento con un grande conduttore di Radio 24 che è Gianluca Nicoletti, che potete ritrovare ogni giorno alle 12.30 con Melog, Cronache Quotidiane. Parliamo della giornata mondiale che è domani, 2 aprile, dell'autismo, che è stata voluta dalle Nazioni Unite, dall'ONU, istituita dall'ONU nel 2007, che serve ad aprire un varco nel silenzio che per troppo tempo, per tanti anni, ha circondato questa disabilità. I dati relativi alla sindrome di autismo sono allarmanti, colpisce tra i 5 e i 50 bambini ogni 10.000, solo in Italia coinvolge circa 550.000 persone, in Europa 5 milioni, colpisce soprattutto i maschi, anche 5-6 volte più spesso delle femmine e questa giornata mondiale dell'autismo serve appunto anche a sensibilizzare, come si dice in genere, ma anche a proprio portare sotto i riflettori una vera e propria emergenza. Gianluca Nicoletti. Gianluca ne parla da tempo con una grande sensibilità, con grande apertura, anche perché ne è coinvolto poi personalmente. Gianluca. Beh sì, ne parlo perché ho un figlio autista di 16 anni e ho deciso a un certo punto, quando me ne sono fatto carico in maniera più che quotidiana, nel senso che penso sempre addosso, ho deciso che era il caso di parlarne, perché so che tanti genitori sono nelle nostre condizioni, che hanno un figlio autistico, ormai non è più un bambino, si avvia a diventare un adulto a 16 anni, l'adolescenza è nel suo pieno esplodere come un qualsiasi ragazzo, e vengono un po' più di problemi di gestione fisica, perché sono ragazzi molto irruenti, molto vivaci, diciamo. Il mio figlio è alto ormai quasi 2 metri, è un gigante, sì. Quindi c'è proprio bisogno molte volte di tenerlo a freno, perché sai, l'irruenza di un adolescente, se poi è un adolescente che in realtà è anche pazzerello, molte volte di correre dietro per strada, ecco, non è una cosa molto facile. Ma detto questo, il vero senso di questa giornata, soprattutto nel nostro paese, mia cara, perché non è un paese proprio come gli altri riguardo all'autismo, ancora abbiamo una visione molto antiquata, molto medievale, molto limitata, molto basata sulla superstizione. Tu pensa che sono 5 anni che sono delle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, ancora non sono legge, ci sono non so quante 4-5 proposte di legge, nessuna mai è riuscita a arrivare all'iter. Tu dici cosa serve una legge? No, è fondamentale una legge. Primo, perché con una legge, come in ogni paese civile, avremmo l'obbligo di diagnosi precoce in tutti i bambini. Entro i primi 3 anni, no? Si manifesta, entro i primi 3 anni di vita, Gianluca. Sì, però se tu riesci a fare una diagnosi entro i primi 18 mesi, il primo test è un test semplicissimo, è un questionario, che potrebbe fare anche una maestra d'asilo. Però sai, in Italia è molto difficile, i pediatri non lo fanno, perché se lo fanno vogliono comunque che sia riconosciuta la prestazione in più, e quindi tanti ragazzi, i genitori accettano il fatto sia autista quando ormai non c'è più niente da fare. Perché non ci sarebbe qualcosa da fare se si diagnostica molto prima. Non si guarisce, però tu puoi cominciare a trattarlo sin da piccolo, se lo tratti bene, quando all'età di mio figlio magari parla, magari ha molte più autonomie, non è che si guarisce, ma può acquisire sempre più autonomia. E che oggi una famiglia che comincia ad avere un figlio che non parla, qualche sintomo singolare, che ne so, fa delle azioni in maniera stereotipata, non guarda in faccia le persone, si isola, tendono piuttosto a dire ma no, sai, timido, poi parlerà, e accettano tardissimo il fatto che sia autistico. Invece bisogna, se magari a scuola qualcuno dice guarda, forse il suo ragazzo è autistico, portalo a un medico, cambiano scuola perché non vogliono che si dica. Perché? Perché ancora rispetto alla malattia psichica esiste un antico, un tabù insondabile, che esista una sorta di maledizione divina, c'è qualcosa di diabolico nella stima. Vabbè, poi, queste idiozie, Gianluca, senti, ma si parla di vere e proprie emergenze. Nel senso, persone che vanno dal neuropsichiatra, può essere stati all'esorcista nel nostro paese, sì, anche sì. Ancora ci sono esorcisti, come no? no. Che sono sotto analisi le madri, perché dicono che forse è colpa di loro che non sono state abbastanza mamme, sono più occupate magari del lavoro e non hanno dato il figlio quando lo allattavano. Sì, poi colpevolizzare le madri è un classico. Certo. Senti, ma si dice che è una vera e propria emergenza, nel senso che sono venuti allo scoperto i casi, o davvero ce ne sono di più rispetto al passato? Guarda, i dati che ci vengono dagli Stati Uniti, proprio dell'altro ieri, che un bambino ogni 68 comunque sarebbe nello spettro autistico, che è tanto, che è il 30% in più di quello che dicevano 2 anni fa. Dipende anche da vari fattori. Già questo spettro si è molto allargato, e questo, quindi vengono messi nello spettro autistico anche ragazzi che hanno dei disturbi comunque del comportamento, comunque dell'apprendimento, comunque della relazione, che però non erano stati chiamati autistici. Poi nei paesi civilizzati si fa questa diagnosi precoce, quindi si cominciano a scoprire più casi che prima non si scoprivano. Poi comunque esiste un margine che ancora non è calcolabile, impercettibile, che ci sono probabilmente anche delle circostanze aggravanti. Però sai, non voglio entrare in un discorso prettamente scientifico, perché noi siamo il paese delle leggende, che ancora ci sono. Sì, anche la questione dei vaccini è ancora tutta da verificare. Gianluca, abbiamo 20 secondi, mi dici qual è la cosa più bella del vostro rapporto tra te e tuo figlio? Beh, sai, mio figlio, mi sono accorto che avere un figlio e doverlo tenere sempre addosso ti dà la concezione che essere padre è un mestiere che dura tutta la vita. Sai, normalmente l'altro figlio, quello grande, quando ha passato l'adolescenza, spero che prenda la sua strada, lo vedo sempre meno, perché giustamente diventa autonomo. E lui non ti lascia. Così ti accorgi cosa vuol dire gestire un figlio, doverlo seguire nelle cose, essergli padre, nel senso essergli guida anche nelle cose quotidiane. Non sarei dimenticato se non avessi avuto un figlio autistico. E questo, in fondo, è il lato dolce amaro di una situazione che certo non augura nessuno, sinceramente. Un abbraccio, Gianluca Nicoletti. Ciao, Gianluca. Noi ci sentiamo tra poco.